Hola, hola. Hola, hola. Attenzione, Gian Maria. Ecco. Ehi, buonasera. Ma lontano ti ho sentito, Era acceso. E mi sono messo a correre. Un po' un gaggio. Oh, beh, se caggi. Per carità. Ma ce l'hai preso o no? Stavo accompagnando mia figlia io, dal medico. E sono rientrato 10 minuti fa. Ah, no, non sono uscito io. Non sono uscito a nessun posto, sono già da casa. E per cui non voglia. Ieri già sono uscito. Sono andato a Calabrico ieri, che mi serviva a cosa. Ma oggi non sono andato a nessun posto, stavo tutto il giorno a casa, tutto il giorno. E per cui si sta bene ugualmente, dai. Sì, non avrebbe nulla. Tanto. Al giorno d'oggi ho venuta, ho fatto un giro. E infatti, poi quando ti serve qualcosa bisogna uscire per forza, capito? Stavo che io se non si sta bene, ma se si sta bene uno esce e fa il opere che deve fare e non se ne parla più. Vediamo un po'. Boh. Ero così, ma... Aia, è un po' affaccendato in casa, là. E per cui già mi sono svogato a me. Hai fatto bene a muoverti un pochettino. Ah, ma come si è caduto. Sono andato ieri alla prigione per vivere anche una bella televisione, è già la presa. Se vai ad affisare, ce la prego a affisare, non da affisare, a fare la bricca. Cazzo, un'antenna ha preso tutti i canali, insomma. Un'antenna, tutti i canali, cazzo. E per cui ho risparmiato. Quasi così vicino ho risparmiato. Oh, ma l'ha cambiata, l'ha messa nuova. L'ho messa nuova, Così che... Ho visto che un'antenna solo, capito? Specialmente il primo e il secondo. No, ho messo un'antenna solo e per cui vedo tutto e dalla la testa, capito? A me non sono due antenne, grazie, invece una prende tutto, ecco. Io ormai non ce n'è più bisogno. Ma è quella larga banda a voglia, si è pigliato tutto quanto. Cosa lunga la larga banda, so. Cazzo, sembra l'antenna del secondo canale, precisa, Sembra l'antenna del secondo canale, precisa. Cazzo, in quella maniera un'antenna solo, vedi tutti i canali. Parla la testa, per cui cosa ne fai, l'antenna del primo, l'antenna del secondo, da fusare così, invece andare a Brico, ho preso questa e vedo tutti i canali, sia per il primo sia per il secondo, capito? Sì, ma quella che hai preso sono antenne da larga banda, ecco cosa è, che prendono dal primo sino all'ultimo canale. Allora, non si bisogna, né mi sa battere niente, basta che tu li vedi tutti, li vedi tu. Vedo tutti i canali, perfetto, è una meraviglia. Così che già sta, c'è tutto e va bene, va benissimo. Infatti è così. Infatti è così, è meglio che ho messo un'antenna solo, senza tapponirne altri. Io prima ce l'avevo così, poi avevo aggiunto un miscelatore con un'altra antenna. Aveva aggiunto perché non riuscivo a vederli bene, allora aveva aggiunti, ma va già si bigliava tutto. Da cuidare dal primo, per il primo e per il secondo, e il miscelatore, mi lo so, da 40 a 45 euro minimo, mentre da 100 con 15 16 euro ho risolto tutto sì, no, è per quello, sì, da Bri come c'è tutto, c'è una voglia connettori, tutto quanto va. E allora, sono a larga banda, ragazzi. Questa qua è a larga banda. Quindi sono tanti tipi. Ho preso quella lì e va benissimo. Anche corta, non è molto lunga. E per cui, anzi, ero in tre pezzi, no, tre, quattro pezzi, perché l'anima centrale si può aggiungere, capito? C'è un pezzo che si può aggiungere, ma io quel pezzo non glielo metto e vado bene ugualmente, è perfetto, capito? Perché va benissimo, sì, non è a voglia, non te ne deve avere tutto. Un domani che spariranno le antenne, chi sarà via tramite il capo del telefono sarà. E poi noi siamo a due passi, non ci abbiamo nessuno stacco davanti, per cui è puntata la telemoteoro e funziona che è una meraviglia, capito? Magari è passato campagna è un po' diversa la questione, capito? Perché sono in un posto e non è che prenda tanto, capito? E mentre che qua è libera l'aria, per cui la punta motore va bene, capito? Va benissimo così, è meglio, ma come è più bello, è così, è fatto anche questo perché era vecchia l'antenna, capito? Era vecchio per l'antenna che c'era, per cui non si era a momenti quando faceva al vento si muoveva e il quadro certe volte mancava, mentre adesso non manca, è perfetta, è una meraviglia. Hai fatto bene, ma così la giambata non vive più, la vive più bene. Ehi, perfetta. Aspetta, stavo guardando la cosa. Eccoci qua, stavo guardando la questione. Ma già va bene tutto, per cui tranquillo. Vediamo un po'. Sto provando a vedere un po' se entro, capito? E infatti adesso ha girato al primo, a vedere un po' se entro, capito? Un attimino che vado a vedere se sto entrando. Allora, e Betto! Dimmi Gianmarì. Sono rientrato. Vabbè, a disturba, no? No. Non sta entrando, no. Tranquillo adesso, sotto. E come si sono cambiati le frequenze, non entra più. Forse per quello, Cazzo è perfetta, non si muove per niente, per cui. Almeno sto tranquillo, però lascio a due fatte, non l'aumento nemmeno, cosa l'aumento a fare, tanto per lui ci sentiamo su due fatte. A voglia se si intende. Sto tranquillo, capito? Per cui, non mi sembra vero, almeno posso usare questa antenna grande, capito? No, quel piccolino, quella piccola, già si sente, già fa ugualmente anche con quell'altra piccolina dall'altra parte, però è meglio con questo, ha più ricezione con questo. Almeno lo senti più bene quelli che sono più lontano. Infatti, certo. Cazzo, io ho preso anche la nuova, ragazza, guarda. A 50 anni, ragazzi, sta con tre radiali, cazzo, e sta in bagatelle, troppo, già 6 mesi di raggio, cazzo. Ma non è piatto, ma lascio questa, sa che c'è. Quella che ho comprato non ha piatto, Cazzo, va bene anche questa. E a voglia, cazzo, cosa hai comprato da Farida? Sai di come vendilla? Non ho capito. Cosa hai comprato a fare? Di come vendilla chissà, a qualcuno? Vabbè, no. Non è che mi sta chiedendo a fare, Capitalmente, se capita di tirarla la roba, però per adesso non lo, me la lascio, e vediamo un po'. Mi seguo questo stivale, adesso vediamo primavera, cosa in estate, cosa fa, cosa lo fa, capito? Casomai mi la lascia ancora, capito? Eventualmente dovessi rifattare questa qua e me la cambio, capito? Però se non difetta questa qua lascio questa, capito? Ok, avanti, buonasera. Gio Maria, l'ascolti? Ma non ho capito, no, chi è, capito? Comunque, buonasera. Lo sento benissimo. Buonasera, Ma non sta entrando più il cipollino. No, è pensione. Salutamelo, grazie, che sono tanto come un amico che ci conosciamo da parecchio, per cui me lo saluti, Questo passaggio non ti ho sentito, perché c'è stata una scarica. Dottor, ripeti, dai. Poi anche io lo ascolto poco. Ripeti quello che hai detto, perché non ti abbiamo sentito. Adesso ho capito, ieri sera, infatti, solito siamo gli attori insieme la sera a quest'ora, capito? Fino alle 8, dai, siamo sempre qua, dalle 7 e mezza fino alle 8 siamo sempre qua con lo contore. Buonasera anche a te, qua ci ascoltiamo ogni tanto, a Vuglia, qua ci trovi la sera, ci trovi sino alle 8 meno 5, alle 8. Dovresti metterti qualche antenna più lunga per sentirci più bene, o magari a noi già ci senti bene. Sì, Gio Maria. Hanno suonato, dai, vado a chiudere. Chiudo, dai, che mia figlia, per cui mi approfitto, dai. Allora, ti saluto qua domani, dai, buon proseguimento, saluto all'amico allora, e ci sentiamo alle prossime allora, saluta il Gippone, mi raccomando, ok, ciao, riprendi. Ciao Gio Maria, stammi bene, a domani. Ok, ciao, chiudo. Ah, io già ti ascolto, ma a volte ti sento bassino, a volte ti sento forte. Ah, latte dolce. Sì, ti ascolto benissimo. Con l'antenna sei ancora più alta l'antenna, dovresti arrivarmi ancora più forte. Vabbè, dove sei? Al quarto pettine o al terzo pettine? Cioè così, io da lì, molte volte, dalla macchina, qua a Sassari arrivavo fortissimo. sono a casa. Ma sono a casa, sono, ehi, a Voglia. Sono a casa. Brava, brava. Ma è una bella cosa, adesso cosa strana, però non lo so. Adesso sono cosa sono cosa, ma la cosa è stata bene. Infatti. Un pochino senti anche gli altri, senti che arrivano ancora più forti lì. No, già è così, piano piano vedrai che riuscirai a agire anche più forte con l'antenna più in alto. Già è così. È così, infatti. Anch'io, io tanti anni fa, quando ero, sentivo anche il produttore, io sentivo. Ogni tanto lo sento il produttore, ma non è sempre che entra. Ah, molte volte, poi ho smesso e poi ho tornato a riniziare. Poi quando c'è la voglia di non abbandonare, oh, c'è molta gente che ha abbandonato, non ne vuole più sapere. Ma davvero nelle cose, nei altri canali? Vabbè, molte volte entriamo anche noi e sa così, ma purtroppo quando c'è che siamo in due, molte volte entro anch'io su 10. Ma molte volte me ne rimango in ascolto, me ne rimango perché non ho voglia di modulare, ma me ne rimango in ascolto. Se ce n'è voglia si entra, se non ve ne gana se te ne stai all'ascolto. Ah, questa è Giaramidi. Purtroppo è così. Quando non c'è nessuno ti metti all'ascolto e non parli da nessuno. Se no ti metti lì a ascoltare e basta. Infatti è così. Infatti è così, purtroppo. Siamo così. Infatti. Oggi da stasera dovrebbe entrare un'altra persona invece. Deve essere Aldo Davà. Sì che ti ascolto, a Voglia. Io ho un presidente. Cioè con questo è un presidente che sta uscendo con 10 watt. E poi ne ho un altro 40 canali che l'ho messo in stand-by. Sì, anche con quello là si esce. Anche con quello già si arriva. Già lo conosco, ce l'ho avuto anch'io quello lì, ce l'ho avuto tanti anni fa, poi me l'ho venduto. E infatti non c'ha l'FM, non c'ha, ma c'ha gli altri canali però, USB e USB. Allora si possono mettere però, c'è una scheda per metterli. Sì, c'è una scheda per aggiungere i canali. Sì, infatti, già te ne va di... Poi vai in onda, ve ne giocanari. Anche con 40 a Vuglia. No, non sono la M, c'è, catta. Perché io conosco l'altro che c'ha 80 canali, l'FM non ce l'aveva, però c'aveva USB e SB. Ho capito. Allora, quello è l'altro, ancora più vecchio. È così. Quello è vecchiotto, ma vecchiotto però. Ok, ci risentiamo alle prossime. Ciao. Ciao, ciao.